versione di Oscar Giannino. This is the end. Yeah. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:35, primi 33 secondi agli studi di Radio 24 di Milano. Un saluto da Oscar Giannino, grazie a chi ci ascolta e a chi ci scarica in podcast, sempre tanti. Subito all'argomento del giorno, perché lo sapete, i minuti sono pochi. Ci credete voi? E se sì o no? Ma che cosa vuol dire per voi questa formula che tutti ripetano e che i media rilanciano all'indomani del voto delle europee, la fine del rigore? Che cosa vorrebbe dire in concreto per voi rispetto a questi anni? Che cosa vi aspettate? Perché pensate che sia giusta questa formula? Ecco, lo spunto di questa trasmissione e il motivo per cui abbiamo l'ospite che vi presento ora è un articolo, quasi un'intera pagina del Corriere della Sera di oggi, pagina 5, lo trovate, nel quale si spiega, secondo me in maniera molto chiara e netta, perché per tanti versi questo mantra, questa formula ripetuta con tanta insistenza dalla politica, e cioè fine delle politiche di austerity, fine del rigore, adesso cambiamo verso all'Europa, all'Europa in cui le politiche sono imposte dai tedeschi, sono quelle politiche lì, il rigore che ha impedito la crescita. Ecco, perché questa formula deve fare i conti con la realtà. E adesso ci facciamo spiegare dall'autore qual è questa realtà, una realtà certo internazionale, quella tedesca, quella delle regole che chi ha governato in questi anni in Italia ha sottoscritto, non è che ce le abbiano imposte, anche se in campagna elettorale molti hanno fatto finta di dimenticarsi che le avevano contrattate e sottoscritte loro. Ma al termine di questa mia brevissima introduzione io vi ricordo solo alcune cifre, numeri della spesa dello Stato, che a me personalmente non fanno tornare molto il significato della parola rigore, o meglio, non me la rendono credibile se per rigore si intende che qua abbiamo strangolato lo Stato, abbiamo tagliato la spesa. Allora io vi limito a ricordarvi la spesa pubblica corrente, quindi al netto degli investimenti. Bene, questa spesa pubblica corrente nel 1992 era di 412 miliardi di euro, nel 92, 412. Nel 2001, quindi siamo arrivati con l'euro, entrati nell'euro, era passata da 412 miliardi nel 92 a 548, quindi un bel po' in più. Nel 2007, quindi diciamo l'anno del pre-crisi, era salita dai 548 miliardi del 2001 a 686 miliardi. Nel 2013 la spesa corrente è ulteriormente salita a 757 miliardi di euro. E tenete conto che nelle tabelle del DEF precedenti ai famosi 32 miliardi di Cottarelli, ebbene, la spesa corrente era prevista in salita dai 757 miliardi del 2013 a 811 miliardi nel 2017. Le entrate addirittura da 759 miliardi, il totale delle entrate pubbliche nel 2013, da 759 a 842 miliardi nel 2017. Ricordo a tutti che dei 32 miliardi e 2 punti di PIL di tagli di Cottarelli, finora per il 2014, per l'anno in corso, ne sono stati disposti meno di 3 miliardi, di cui 700 milioni a carico delle regioni, tutti ancora da chiarire. Quindi, a me questi numeri, sbaglierò io, dicono che primo il rigore nella spesa dello Stato non c'è stata, la spesa è continuata a salire e i tagli tutte le volte sono stati tagli relativi agli incrementi che si sarebbero registrati ulteriori, ma sempre minori in maniera tale che la spesa comunque crescesse di anno in anno. Certo, c'è stato un aumento bestiale negli ultimi anni delle entrate e allora il rigore è stato un rigore per me, solo per i contribuenti, di cui gli effetti li abbiamo visti, la caduta del loro reddito disponibile, dei consumi che sono larga parte della crisi italiana, visto che il 70% del PIL è domanda interna. Però il rigore qua è a senso unico, la spesa pubblica strangolata da cui si dovrebbe uscire, se questo per voi è il rigore che temete, qui la spesa pubblica strangolata non c'è mai stata, c'è stato il rigore solo per i contribuenti, ma è la mia opinione. Non stiamo parlando di questo oggi, ma delle condizioni che rendano credibile o meno questa formula: meno rigore, fine delle politiche di austerity. E per parlarne con noi l'autore dell'articolo stamattina sul Corriere della Sera, appunto, Danilo Tailo. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio, Danilo. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti. Allora, tu sostanzialmente dici ci sono due cose fondamentali. Uno riguarda la Germania, un altro le regole. Riepiloghiamo un po', perché per te, secondo te, i risultati tedeschi in realtà non mutano poi insieme a quelli europei di molto la sostanza. I risultati elettorali intendi? Beh sì, insomma direi che i tedeschi in questo momento sono convinti innanzitutto di aver bloccato la crisi dell'euro, diciamo così, di averla bloccata, nel senso che se ricordiamo il 2011, il 2010 in Grecia, il 2011, il 2012, la drammaticità della situazione, da allora le cose sono piuttosto cambiate. Buona parte del merito va a Draghi, sicuramente la via a Draghi è stata aperta dai politici, dai governi, da un famoso vertice in cui sostanzialmente si diede via libera, e Merkel in particolare diede via libera a Draghi, e quindi direi che ritengono i tedeschi che queste politiche che sono state fatte, che erano le politiche che dovevano salvare l'Europa, loro ritengono che hanno salvato l'Europa, e mi pare che una serie di ragioni ci siano. Rimangono enormi problemi in Europa, naturalmente si sono visti alle elezioni di questi giorni i cittadini che sono preoccupati e hanno protestato, ma dal punto di vista delle politiche con le quali si è risposto alla crisi finanziaria in particolare, io non credo proprio che i tedeschi vogliono fare passi indietro, e credo nemmeno molti degli altri governi. Queste politiche che oggi vengono chiamate come austerità sono sostanzialmente quella di imporre dei bilanci diciamo così di stabilità, e quella di fare delle riforme nazionali oltre a una serie di riforme europee, che anche queste secondo me in una certa misura sono state fatte, anche con dei limiti, ma comunque ci sono. Quindi io non credo, non mi aspetto cambiamenti radicali dal punto di vista della Germania. Ti faccio una domanda da insomma collega che sta in un autorevolissimo giornale, il primo giornale d'Italia. Tu hai capito in realtà, si è capito, non tu, ma insomma, si è capito davvero Renzi, che anche nella conferenza stampa successiva al trionfo del 40% ha detto adesso vado in Europa, vertice di Bruxelles, il punto diventa cambiare le regole. Sì. In concreto, quali regole l'Italia di Renzi secondo te si accinge a chiedere o chiederà di cambiare? Beh, dipende, è veramente difficile leggere nelle parole che ha detto Renzi, nel senso che dal punto di vista del contenuto programmatico e di quello che porterà a Bruxelles non è stato estremamente preciso. Io spero che lo sia nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. No, quindi ti interrompo solo per farti un'altra domanda. Non è un po' singolare che dopo un mese di campagna elettorale sull'europeo in realtà non lo sappiamo che cosa vuole? Non lo sappiamo, ci sono due possibilità: o si va in Europa cercando di dare la colpa all'Europa, e quindi si chiede, diciamo così, più flessibilità di bilancio, eccetera, eccetera, che al massimo qualche flessibilità può arrivare, ma certamente non è risolutiva dal punto di vista della crescita, oppure ci si fa carico di quello che è il vero problema, cioè fare ritornare la crescita con riforme nazionali. Alcuni paesi, anche di quelli che sono stati in difficoltà negli anni scorsi, hanno cominciato a farle. L'Italia ha fatto una riforma delle pensioni, ma poco di più, ha bisogno di fare un'enormità di riforme. Quindi o si va a chiedere larghezza di bilancio in Europa, ed è una possibilità e non la si avrà, oppure si decide di fare le riforme in casa, le riforme domestiche. Questa io credo che sia la scelta che ha di fronte Renzi. Il secondo punto che ho tutto in articolo stamattina riguarda appunto le regole, che tu dici ma più che tanto non si cambiano, a cominciare dal fiscal compact. Noi in campagna elettorale abbiamo sentito ripetere da molti, da tutti, no euro, da Lega, da 5 Stelle, Fratelli d'Italia e pezzi larghi, estesi, significativi di Forza Italia, ma il fiscal compact ci obbligherà a fare manovre di 50 miliardi di euro l'anno. Ecco, spieghiamo un secondo, perché molti secondo me non lo hanno ancora capito. No, il problema è che noi abbiamo un percorso che abbiamo sottoscritto, che è un percorso stretto di rispetto sia del deficit pubblico che del debito pubblico. Lo dobbiamo rispettare, se lo rispettiamo andiamo avanti, e le proiezioni che sono state fatte da alcuni statistici, in particolare da uno statistico dell'Istat, dicono che la possibilità c'è, e siamo, se guardiamo alle previsioni della Commissione europea, all'interno di una traiettoria che rende possibile evitare manovre di tipo pesante. È solamente un modo per spaventare, ma non è mica vero, non è comunque un obbligo finire sotto il martello dell'Unione Europea. In altre parole, per chi è in ascolto, e semplificando un po', quindi chiedo scusa per i tecnici economisti in ascolto, ma il percorso stabilito dal fiscal compact, cioè un ventesimo di eccesso del debito pubblico ogni anno che eccede la quota del 60% del PIL, che è quella di convergenza, e quindi un ventesimo ogni anno per un paese come il nostro e abbiamo il 134% del PIL, significa che noi abbiamo in 20 anni, partendo da oggi, la bellezza di 74 punti di PIL da dover diminuire in 20 anni. Però detto questo, siccome quello che conta è il rapporto con il PIL, lo dico chiaro a chi ascolta, basterebbe la crescita del PIL ogni anno è fatto da una componente nominale, l'aumento dei prezzi, cioè l'inflazione, per capirci una componente di crescita reale. Basterebbe arrivare a una crescita non di quelle travolgenti dell'1,5% reale l'anno e contare appieno sulla componente nominale che per la BCE è il tetto, cioè il 2% anno, ma ne siamo molto lontani e sentiremo Draghi cosa ci proporrà il 5-6 di giugno quando farà un intervento proprio per alzare la componente dell'inflazione, perché ce n'è bisogno per tutti per diminuire l'impatto del debito pubblico, ma basterebbe per il resto una crescita del PIL reale di 1,5% per impedire per non rendere necessarie manovre straordinarie. Più o meno così, Danilo? Sì, è più o meno così. In più bisogna tener conto di una cosa, che le regole del fiscal compact e le regole accessorie che sono attorno adesso dicono che il calcolo andrà fatto, che il calcolo può essere fatto anche sui due anni, sulle aspettative dei due anni successivi di crescita del PIL. Detto questo, siamo in un percorso che è abbastanza facilmente sotto controllo fino a questo momento. Si può naturalmente, ci sarebbero dei problemi seri se andassimo in deflazione, questo è sicuramente vero. Se il PIL non crescesse, il PIL nominale, questo creerebbe sicuramente dei problemi. Allora, adesso abbiamo 60 secondi di informazioni sulle strade e poi torniamo a parlare della fine del rigore con Danilo Taino. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:48, 14 secondi. Stiamo parlando con Danilo Taino del Corriere della Sera di questa formula ripetuta molto insistentemente dalla politica: basta con rigore, cambiamo il corso dell'Europa. Tentiamo di capire se in concreto davvero che cosa si può cambiare. Non sappiamo che cosa davvero il governo metterà al centro del dibattito europeo come richiesta italiana nel semestre di presidenza italiano. A me sembra un'anomalia, dopo 30 giorni di campagna elettorale, non saperlo. I numeri ve li ho ricordati all'inizio: la spesa pubblica corrente è sempre cresciuta, continuerà a crescere e anche i tagli di Cottarelli per l'anno prossimo, sempre ammesso che ci siano, viste le difficoltà già che si vedono quest'anno, 15 miliardi l'anno prossimo, speriamo, ma intanto sono già tutti presi perché servono a coprire la trasformazione in misura strutturale degli 80 euro che per il momento è solo quest'anno, la sua promessa dal Premier, estensione a pensionati e incapienti, in più gli ammortizzatori sociali da continuare a finanziare, qualche costo delle riforme nel frattempo intraprese, e voi capite bene che il margine quindi a quel punto, da quei 15 miliardi di tagli, sempre che verranno fatti l'anno prossimo, per finanziare altri sgravi sulle imposte al lavoro e all'impresa, ciò che serve di più per aumentare la crescita potenziale, secondo me a oggi non ci sono. Mi iscriveranno al partito dei gufi, ma dai numeri io vedo questo. Tu come la vedi invece, Taino? No, io sono completamente d'accordo, non credo che ci siano, e non credo nemmeno che il problema della crescita, che è il problema fondamentale che dobbiamo affrontare, passi attraverso più spesa, come dicevi tu prima. È assolutamente un'illusione ed è assolutamente solo un'affermazione politica. Non ci sono gli spazi per fare più spesa, e più spesa non produce una crescita sostenibile. Produce debito, produce deficit, ma non produce quello. Io credo che parla di, diciamo così, di lastricare il terreno del futuro di spesa pubblica sostanzialmente chi non vuole fare le cose vere, che sono le riforme. Sono le riforme che tutti sanno tra l'altro quali sono. Questo è secondo me la chiave. Chi vuole spendere, uscire dalla crisi o dalle difficoltà spendendo, è perché non vuole fare le riforme. Questa è una convinzione mia, però secondo me è un'osservazione abbastanza facile, la si nota. Sì, sì, però la politica non ci sente. Certo. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori con i messaggi. Viola da Milano ci dice: la fine del rigore? No, qui ha pagato sempre solo Pantalone, cioè non noi, lo Stato non si è ristretto in nulla. Giancarlo Limonti ci manda un sms: non si tratta di spendere di più, ma spendere meglio. Zero sprechi, massimo investimento per la crescita economica e sociale, massima ricaduta sul territorio. Giancarlo, guarda che la spesa per investimenti pubblici è la vera quota che è stata più ridotta di tutti in percentuale della spesa pubblica in questi anni. Ormai siamo rimasti a 25 miliardi di euro più o meno annui come grandezza di spesa per investimenti, poi si aggiungono le spese in trasferimenti tipo ferrovie, poste e così via, ma gli investimenti pubblici è diminuita in questi anni di crisi, ha cominciato già prima la diminuzione, del 50%, perché la spesa corrente sale, quella che serve per fare clientele e voti, la spesa per investimenti è diminuita. Quando io leggo mettiamo la spesa per investimenti pubblici fuori dal conto deficit e debito pubblico, mi viene da sorridere, perché la politica lì sì che ha tagliato in termini reali, quella corrente l'ha fatta crescere. Altri messaggi: gli interessi passivi del debito pubblico sovrastano ogni tentativo di abbattimento del debito stesso, è impossibile raggiungere il debito. Beh, qui è un'opinione molto discutibile, perché l'ammontare totale degli interessi negli anni dell'euro, a prescindere da quando è esplosa poi la eurocrisi che ha rifatto schizzare lo spread, è molto diminuita rispetto ai tempi della lira. Andate a vedere, noi pagavamo fino a 12,8 punti di PIL ai tempi della lira solo di interessi sul debito pubblico, per scendere poi sotto il 5%. Mi fermo un secondo qua, vediamo, c'è un ascoltatore, Mauro, che ci chiama da Parma. Prego Mauro, che pensi? Deve finire questa austerità? Cosa vuol dire per te? Ma per me significa semplicemente dire questo, affermare anche, diciamo, cercare di sposare un po' tutte le esigenze. Da un lato degli impegni anche eventualmente scritti, come dire, col fuoco, a fare delle riforme che rappresentano l'eliminazione di alcune patologie che esistono in Italia, ma dall'altro vuol dire riconoscere che le ricette, quelle usate fino adesso, sono fallite completamente, mentre esistono casi, diciamo, sul panorama mondiale in cui fare l'esatto opposto, cioè investire sia pubblici sia privati, investimenti sia pubblici sia privati, per sollevare le questioni che riguardano il lavoro e quindi eliminare un po' di disoccupazione, eliminare un po' di disoccupazione giovanile, solo questo è la ricetta giusta per abbassare anche, diciamo, il debito pubblico. In realtà, io non so se sono sicuro che hai letto il libro di Rampini, ma diciamo, da là si evince con una certa evidenza, e non, diciamo, come dire, come partito preso, che Rampini non mi sembra che sposa, diciamo, il partito della spesa, ma viene con tutta evidenza messo in chiaro che non si può pagare il debito pubblico in una fase di recessione o di stagnazione, mentre è vero il contrario. Se io riesco a fare un po' di sviluppo, e questo mi sembra che lo dite anche voi, se riesco a fare un po' di sviluppo allora tutto torna, cioè anche i conti pubblici cominciano a migliorare di molto. Il problema è che noi siamo su un totale di investimenti che è del meno 27% rispetto al pre-crisi. Allora tieni conto che su questa quota di investimenti per la parte pubblica, l'ho appena ricordato, la parte privata è stata massacrata dal fatto che, a fronte della crescita della pressione fiscale sul reddito lordo d'impresa fino a quasi il 70%, si diversifica, più le aziende sono grandi meno pagano, più sono piccole più pagano più sul reddito d'impresa, e di fronte ai conti che andavano male nella crisi, anche lì gli investimenti sono diminuiti. 127 punti percentuali di investimento in meno sono l'enorme peso che noi abbiamo per fare quello che dici tu. È ovvio che servono gli investimenti, poi ci sono riforme da fare per la produttività, che non significa spendere né per pubblico né per privato, una forma di contrattazione per esempio decentrata per trasformare il ciclo di utilizzo degli impianti, degli orari, dei turni, per consentire a ogni impresa, a ogni settore di inseguire davvero la domanda estera, innanzitutto quella, visto che è quella il settore che tira di più il PIL italiano, quella è una riforma che alza la produttività, ma i sindacati sono contrari, per dirne una, sfumature diverse e così via. Tu che ti aspetti, Taino, a breve? L'impatto sulle riforme possibili del governo che ti aspetti qual è? Ma purtroppo in Italia le riforme sono sempre state fatte solo ed esclusivamente quando eravamo sotto pressione dell'Europa o sotto pressione dei mercati o sotto pressione di tutte e due. Questa volta andrebbero fatte perché siamo sotto la pressione di una opportunità, secondo me, straordinaria che non si presentava da anni. Ci sono fuori dal paese e anche, credo, all'interno del paese, ma io sicuramente ho sentito degli investitori non italiani con il libretto degli assegni in mano che vogliono venire a comprare in Italia, perché conoscono, vedono i punti di forza del paese, i punti di forza intendo dire dell'economia privata, dell'impresa, certo, quella privata, reale. Quella reale, vogliono comprare, vogliono entrare nella moda. E speriamo, ce lo dobbiamo augurare. Devo ringraziare Danilo Taino, il tempo è finito, continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.